Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Giorni le serate di milioni di italiani saranno blindate. Pregarsi e astenersi per di tempo, inutile e controproducente fare o proporre programmi alternativi. Per 3 settimane gli italiani giocheranno a calcio e lo faranno davanti a un grande schermo, al bar, a casa, da soli in compagnia. Voi siete pronti? Vi state organizzando? Avete già in mente come, dove, con chi guarderete gli europei? Prima di spiaggiarci davanti al video, farei con voi un po' di riscaldamento, perché se il calcio ci appassiona, ci riscalda il cuore, parlarne, pensate, fa bene al cervello. La ricerca lo dimostra. Per gli appassionati di sport, un semplice dialogo sull'argomento attiva una parte del cervello chiamata corteccia premotoria laterodorsale sinistra, i cui compiti sono pianificare, elaborare le strategie e controllare le attività motorie. Le stesse attività, per intendersi, chiamate in causa ogni volta che eseguiamo movimenti complessi. La ricerca dimostra poi che il cervello degli adulti è molto flessibile e che le aree cerebrali coinvolte nel movimento fisico e quelle del linguaggio si parlano in continuazione. Significa, per esempio, che lo sport o la sua rappresentazione potrebbero aiutare anche nella comprensione di materie complesse, come fisica, matematica, filosofia. Il tifo attiva, parlare di calcio aiuta, come dimostrano i risultati di questa ricerca che abbiamo letto su OK Salute. Dottor Francesco Aquilar, buongiorno. Buongiorno e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Psicologo, psicoterapeuta e anche un esperto del nostro Daily Lab, lei può confermare? Assolutamente sì, e tra l'altro il gioco del calcio nella nostra società e nella nostra vita ci aiuta a svolgere numerose funzioni, oltre che questa dell'attivazione cerebrale, dal punto di vista antropologico e psicologico. Influenza le comunicazioni intense e rapide con persone che conosciamo poco, influenza le conversazioni con amici e conoscenti, sia che amino che non amino questa materia, ci consente di esercitarci in spiegazioni tecniche e psicologiche sui significati delle partite e delle relazioni tra i personaggi che osserviamo, e infine ci consente di provare delle emozioni sociali condivise quando c'è la nazionale, fino ad arrivare all'orgoglio patriottico, quindi è un campo fecondissimo. Adesso capisco tante cose del mio amico Gigi Garanzini, che qua in studio con me l'ho trascinato quasi a forza. Ciao Nicoletta. Gigi. Ciao, sono un po' perplesso perché parlare di... poi immagino che arriveremo al tifo, ma già l'idea che esistano aree cerebrali in un tifoso già a me mi inquieta. Io già su questo avrei fieri dubbi, quindi per carità, ma sono qua per imparare. Voglio salutare anche il dottor Gianluca Melegatti, medico sportivo e primario del centro di riabilitazione dell'Istituto Ortopedico Galeazzi di Milano, che è qua in studio con noi. Buongiorno Nicoletta. Bentornato. Lei che tifoso è? Io sono un tifoso accanito talvolta, per la mia squadra del cuore ma anche per la nazionale. Possiamo sbilanciarci una squadra del cuore? Milan. Da sempre. Mi sta nel cuore da sempre, cioè anche ho avuto la fortuna di lavorare con il Milan, e, però anche la nazionale mi acchiappa. Mi intriga. Sì, molto. Dottore, ne abbiamo dedicato tante puntate sul calcio, sui vantaggi e sui rischi di giocare a calcio. È sicuramente più faticoso giocarlo che vederlo, ma anche spiaggiati sul divano si consumano tante energie, tanto che voi medici invitate a essere un po' cauti. Ma io insomma vorrei ridimensionare un pochettino questo, la paura che il tifoso spiaggiato sul divano possa avere qualche problema serio. Un conto è parlare del tifoso che segue le partite a casa, e un conto è parlare del tifoso che segue le partite allo stadio, perché sì, l'ambiente dello stadio talvolta, un po' esasperato com'è negli ultimi periodi, può creare delle perturbazioni al nostro organismo. Mi viene subito da pensare a una cosa interessante che ho tra l'altro sperimentato proprio io: il rumore che esiste in certi stadi adesso, stadi chiusi o stadi piccoli tipo bomboniere, ed è un rumore molto alto. Non voglio allarmare assolutamente dicendo che esiste una correlazione tra problemi cardiaci e alti livelli di rumore, ma se penso al rumore che esiste in certi stadi, voglio dire, un pensierino ce lo potrei fare, perché è stato registrato un rumore in una partita in Turchia l'anno scorso di 136 decibel, quando sappiamo che il livello di dolore per una percezione del rumore è di 130 decibel, quindi immaginatevi che fastidio o che disagio può avere una persona sottoposta a un rumore continuo per un'ora e mezzo, con anche tutto quel carico di emozioni per la partita, eccetera. Quindi altro che discoteca. Altro che discoteca. Gigi, gli europei attivano un tipo di tifo differente rispetto a quello che invece si mette in moto quando si tifa per la propria squadra del cuore. Sì, europei e mondiali, forse ancora più mondiali che europei. Poi l'intenditore, il buon gustare del pallone, forse preferisce l'europeo perché è più omogeneo, nel senso che non ci sono le squadre materasso, non ci sono le grandi rivelazioni che poi in genere sono dei flop, e c'è più equilibrio, e quindi sin dall'inizio tu assisti a partite vere, più tirate, più difficili, meno spettacolari in genere che ai mondiali, ma più di sostanza. Quindi questo più o meno da un punto di vista tecnico, così a grandi linee, ma credo che sarà così anche in questa edizione. Certo, tra il tifo di bandiera azzurra e il tifo invece di bandiera, come dire, locale o di bandiera personale, c'è una discreta differenza. Anche se la radicalizzazione del tifo negli ultimi anni in Italia, io non vorrei rubarti troppo tempo. No, anzi. L'inchiesta di Ivo Diamanti, che ogni anno lui pubblica a inizio stagione su Repubblica, ed è uno studio approfondito su alcuni aspetti della partecipazione calcistica, della partecipazione emotiva del tifoso, della gente, dell'appassionato, indica un tasso crescente tifoideo, no? Nell'appassionato. Questo significa che mentre una volta lo juventino, l'interista, il milanista, il napoletano, eccetera, quando vedevano la maglia azzurra, quella maglia comunque veniva prima di tutto. Adesso invece no, perché si trascinano, cioè all'interno della comunità azzurra si trascinano le rivalità e diciamo pure le sciocchezze, o i pregiudizi o le cattiverie nei confronti di quei giocatori, a seconda di come sono targati dalla provenienza. Se uno la targa TO, è molto probabile che chi invece ha la targa Mi guardi con relativa cosa. Il contrario è ancora più forte, eccetera. E questo è una degenerazione, secondo me, un po' degli ultimi anni. Dottor Aquilar, lei come la spiega, da psico? Diciamo che c'è una diversa attivazione delle nostre motivazioni, nel senso che avere la squadra del cuore significa anche avere vicino una squadra nemica, e potere in qualche modo esercitare non soltanto l'affiliazione e la cooperazione con i propri compagni di tifo, ma anche essere uniti dalla presenza vicina del nemico comune. Mentre invece sulla nazionale c'è questa tendenza a essere tutti uniti, ad avere il nemico un po' più lontano. Ecco perché questa doppia appartenenza richiede un po' di tempo per omogeneizzarsi. Ma credo che nel tempo, poi dopo, c'è la coesione ugualmente, si riesce ad avere alla fine degli europei o alla fine dei mondiali la stessa passione che si avrebbe per la propria squadra del tifo. È solo una questione di tempi. Dottor Melegatti, quindi diamo tempo al tempo? Sì, direi di sì. Talvolta però rimango perplesso anch'io su alcune manifestazioni che abbiamo anche recentemente, a cui abbiamo recentemente assistito, come qualche fischio alla nazionale, alla partita nazionale. Alcune piazze non sono gradite perché la nazionale lì, insomma, non ha un tifo molto caldo. Ecco, credo che questo veramente possa anche manifestare anche una sorta di disagio del nostro paese. Sì, ci sono anche fenomeni di dissociazione preventiva che un tempo, come dire, autosuscitavano un minimo di autocommiserazione, uno se ne guardava, nel senso, anche tanti anni fa, immagino, mi pare di ricordare che c'era chi della nazionale, tutto sommato, sulla nazionale tutto sommato era indifferente, o addirittura in qualche caso ostile, va a sapere perché, per antinazionale. L'anti-italiano di Giorgio Bocca, che non era questo, non era applicato sul calcio, ma che poteva... Sì. Adesso invece questa cosa, da qualche edizione cavalcata, nel 2006 fu Grillo a rivolgere un appello ai baldi atleti del Ghana, partiti inaugurale, perché demolissero l'Italia e finalmente si potesse far festa. Nel 2010 fu la Lega. Ora, a parte il fatto che questo non significa evidentemente avere successo o meno, perché Grillo il successo l'ha avuto a distanza di un sacco di anni, la Lega è meglio che non ne parliamo, dopo sta roba del 2010, ma insomma... c'è chi oggi la cavalca questa ostilità verso la maglia azzurra, e questo è un altro fenomeno strano che comunque viene fuori in queste ultime stagioni. 800 24 00 24, se volete intervenire raccontandoci ad esempio se fate il tifo, che tipo di tifoso siete. Dottor Aquilar, il tifo è, sembra, completate voi la frase, sembra un esercizio banale, ma da come noi tifiamo possiamo scoprire anche molte delle nostre dinamiche relazionali. Possiamo scoprire molte delle nostre dinamiche relazionali e possiamo utilizzare questa occasione anche per prendere le distanze da alcuni eccessi come quelli di cui parlavano gli ospiti precedenti. È vero che c'è stata una conflittualità tra nazionalismo, localismo e internazionalismo, e un'occasione del genere può essere importante affinché noi ci rendiamo conto di questo e cerchiamo primo di non prendere troppo sul serio la questione del calcio e di ricordarci che si chiama gioco calcio, anche se muove grandi questioni economiche, e prendendo le distanze possiamo divertirci di più in questa operazione. Poi valuteremo che cosa ci dicono gli ascoltatori sulla loro personale esperienza di cosa sia il tifo. Dottor Melegatti, tifo contagioso e ad alto rischio di emulazione. Succede sempre così, quando ci sono questi grandi appuntamenti viene poi la voglia di andare, no? E poi alla fine però forse si scopre che non siete tutti calciatori o allenatori, no? Perché no. Poi sul campo vengono fuori, no, le magagne. Vengono fuori i problemi. Adesso c'è una diffusione enorme del gioco del calcio da noi, fortunatamente, però ci sono anche tante persone che si avvicinano al calcio in modo occasionale, i classici sportivi della domenica, e che non hanno una minima preparazione. Il calcio è un gioco fisico, ma anche tecnico. E se non si ha una minima preparazione fisica e una minima preparazione tecnica, che vuol dire una minima coordinazione nei movimenti, ci si può fare male. E ci si può fare male in maniera anche banale all'apparato locomotore, sto parlando di una piccola distorsione, un piccolo stiramento, ma ci si può fare anche un po' più male, si può rimanere bloccati, il classico colpo della strega, e per una persona che lavora di 40 o 50 anni avere un colpo della strega poi crea dei disturbi durante la settimana non indifferenti. Quindi il consiglio è quello di avvicinarsi al calcio, però farlo con un minimo di preparazione. Giancarlo ci chiama dalla provincia di Monza Brianza, 800 24 00 24, benvenuto. Grazie Nicoletta. Mi spiace molto intervenire in modo, per carità, civilmente negativo, perché trovo che voi tre siete tra le persone più apprezzabili che ascolto ogni giorno su Radio 24. Il problema, come già esposto altre volte per iscritto a Garanzini, è che secondo me il calcio occupa troppo spazio in Italia. Ci sono tantissimi sport in cui eccelliamo. Mi ha colpito negativamente che le Olimpiadi, i nostri calciatori venissero trattati in prima classe, quando altre persone che hanno onorato l'Italia con medaglie d'oro a profusione in sport minori sono invece state mandate, diciamo, nella massa. E tutti questi programmi quotidiani sul calcio, prima, durante, dopo, comunque, invece, eccetera, onestamente. Quindi Giancarlo, sì, ma Giancarlo, lei, io rispetto assolutamente la sua opinione, ma noi oggi vogliamo parlare del tifo. Partono gli europei, c'è chi è un tifoso occasionale, io tifo l'Italia, io capisco assolutamente poco di calcio, come sa il mio amico Gigi, le uniche volte che faccio una discreta figura perché magari ho captato, Gigi mi ha suggerito qualche cosa, però devo dire che vedere giocare l'Italia mi appassiona. E la nostra trasmissione di oggi vuole essere proprio una riflessione sul modo in cui questi avvenimenti ci coinvolgono e quale parte di noi tirano fuori. Vorremmo usare un po' il tifo come metafora delle nostre relazioni quotidiane. Se lei ci sta e ci può dire se magari è tifoso, a parte questa sua iniziale premessa in cui ci ha detto che il calcio occupa troppo posto, ma il tifo che cosa muove in lei? Posso dire una cosa, da alcuni anni sono fastidio. Fastidio. Dottor Aquilar, è una sorta di intossicazione, abbiamo anche le indigestioni emotive e anche questo è un aspetto da valutare, perché, dottor Aquilar. I detrattori del calcio hanno legittime ragioni e il problema è di trovare delle negoziazioni che siano soddisfacenti per tutti. Sono d'accordo in linea di principio con quello che diceva Giancarlo, sarebbe più interessante e anche più variato poter avere una diversificazione sociale dei vari sport. Alcune reti nazionali stanno provando a farlo e mi sembra una cosa interessante, però se utilizziamo il tifo quindi come l'essere in qualche modo gentilmente di parte, come metafora delle nostre relazioni, potremmo divertirci a vedere appunto quello che succede dentro di noi, ferma restando che questa osservazione di Giancarlo è pienamente condivisibile. Giancarlo, buona giornata. Renato, grazie di averci chiamato. Renato da Pistoia, benvenuto. Volevo intervenire riguardo al discorso del tifo rivale nazionale, diciamo che mi sembra un po' buffo, insomma, che ogni volta che si parla di nazionale bisogna che tutti devono essere tifosi della nazionale, eccetera, ma ci sono tanti, io sono veronese e ci sono tantissimi veronesi che tifano Juventus, Milan, questo quell'altro, cioè è la stessa cosa, insomma, non vedo perché e per come bisogna accanirsi su chi non è tifa la nazionale. Lei per chi tiferà in questi europei, Renato? Ma io al di là del fatto che non sono, cioè io tifo comunque nazionale, al di là di tutto, però non è che sono contrario a chi non ce l'ha con la nazionale o ce l'ha no, con me. Ma no, ma ognuno, Renato, ognuno tifa. Non è una pratica religiosa, no. Non c'è precettazione, non c'è ricetta medica, nonostante la presenza di così autorevoli medici stamane, e assolutamente è al piacere. Poi certo, se uno tifa per l'Albania, magari questo suscita una legittima curiosità. Si può magari anche si può essere discretamente indifferenti e magari, non dico tifare, ma appassionarsi per chi gioca bene, per chi gioca meglio. Spesso succede un fenomeno, perché all'inizio il professor Aquilar diceva poi il tifo per la nazionale si riscalda strada facendo. Beh, per forza, più vai avanti, più vai verso le semifinali o la finale, e quindi è normale, no, che salga la temperatura. Però è successo in passato e non è da escludere che accada anche questa volta, che l'Italia esce per tempo dalla manifestazione e allora gli appassionati adottano un'altra nazionale che magari è quella che gioca meglio e magari qualche volta invece è il Calimero, è la squadra più debole, e quindi tendi a tifare per Davide contro Golia. Successo nel 2004 per la Grecia, per esempio, giocava un calcio osceno, di una bruttezza e di una vecchiezza incredibile, ma era talmente inferiore a tutti gli altri che istintivamente eri portato a dire ma perché non possono vincere loro? È un po' come chi non si è commosso ieri anche solo mezza lacrimuccia a vedere l'Errani, se io l'ho vista in diretta, che demolisce questa gigantessa australiana. Beh, lei era Davide, davvero. A parte che lei, a differenza della Grecia, lei gioca un grande tennis che non ha la potenza ovviamente degli altri. Ma quando tu vedi Davide che abbatte Golia, beh, è sempre festa nello sport. È di queste emozioni che vogliamo parlare nella puntata di oggi, prendendo proprio spunto dalle emozioni che, volenti o nolenti, proveremo a vedere la nazionale scendere in campo. 800 24 00 24, mercati, mete e poi di nuovo insieme. Come ogni giorno vi ricordo che sulla pagina di Essere Benessere potete leggere il consiglio del giorno dei nostri esperti. A tra poco. Essere Benessere. Calcio, amore, psiche. Chiacchierando con il dottor Aquilar abbiamo pensato di intitolare così la puntata di oggi. Dottor Aquilar, tre parole. È proprio bello l'idea di poter utilizzare anche la passione calcistica senza che questa passione faccia male alle nostre relazioni d'amore. Quindi in qualche modo dobbiamo dare uno sguardo anche a quello, soprattutto quando i due membri della coppia non sono entrambi appassionati. prima di parlare di calcio nella coppia, io vorrei farvi ascoltare i risultati di un sondaggio che Fans Lab, il progetto di ricerca Sharp, ha voluto misurare, ha voluto commissionare per misurare il livello di passione dei tifosi europei. Considerato una specie di tifosometro, andiamo. Il 15% degli inglesi chiamerebbe il cucciolo di casa con il nome di uno dei campioni della propria squadra. Circa il 30% dei russi andrebbe oltre e rinuncerebbe al sesso per un mese per vedere la propria squadra diventare campione d'Europa nel 2012. L'80% dei polacchi dipingerebbe la casa o l'auto con i colori della nazionale. E gli italiani? Se solo il 17% sarebbe disposto a rinunciare al sesso, il 76% in occasioni passate ha indossato la maglia degli azzurri per sostenere la squadra e sentirsene parte. Inoltre, siamo al terzo posto fra gli europei che dimostrano di conoscere meglio la propria squadra. Dottor Aquilar, solo il 17% degli italiani sarebbe disposto a rinunciare al sesso, a proposito per ricollegarci al discorso calcio e coppia. E beh, meno male, perché sembrano percentuali piuttosto, come dire, favorevoli al fatto di non prendere queste cose troppo sul serio e di indossare la maglia, che tutto sommato è una gioia e non è un sacrificio. In questo modo dimostrerebbero questi dati che gli italiani riescono a prendere le cose per la maggioranza con maggior distacco, che poi purtroppo ci sono delle frange che non lo fanno, speriamo che diminuiscano, ecco. Vorrei un commento anche dal dottor Melegatti e da Gigi a questo sondaggio, per invitare anche un po' gli ascoltatori a dire che cosa sareste disposti a fare o a rinunciare per vedere vincere la nazionale. Io mi rivedo, mi ci ritrovo nel campione dell'italiano medio, per cui mi piace l'idea di indossare la maglia azzurra e rinuncerei moderatamente al sesso per la vittoria. E quindi, diciamo, tifo con moderazione, ecco. 800 24 00 24, aspetto le vostre ricette, riti scaramantici, riflessioni, che cosa sareste disposti a fare, a dire, a pensare, a rinunciare per vedere vincere l'Italia o per trovare soddisfazione, perché non è necessario vincere, no? Per vedere un bel gioco. Gigi. Sì, certo, qui ci sono 17 bugiardi su 100 italiani, non ho alcun dubbio su questo, in materia, che ne dica, io credo al professore, quindi ne tolgo uno, supponiamo che lui sia un intervistato, gli altri 16 sono credo dei bugiardi. Bisogna prendere questi sondaggi con l'ovvio beneficio all'inventario. Credo abbia ragione il professore, diceva all'inizio che poi è salendo e andando avanti che crescono queste cose, crescono le scaramanzie, crescono cresce la voglia di provare, cresce la preparazione dell'esultanza, che a me personalmente è una cosa che dà un fastidio infinito, perché dato che ricordo nel 68 per gli europei, ma soprattutto nel 70 dopo Italia-Germania e poi nell'82 dopo la finale, ricordo l'esplosione spontanea di gioia, no? che portò mezza Italia a buttarsi nelle fontane, a buttarsi in giro, eccetera. E adesso vedo la mattina prima che si giochi la partita, vedo arrivare tutti questi tristi bancarellari con i trick e track, le bandiere, eccetera, mi dà un fastidio fisico veramente. E in quel momento, non tanto inconsciamente, mi dico: ma speriamo che l'Italia becchi, che così almeno stasera stiamo tranquilli. Sì, giuro, ma perché? Ma hai capito in che senso? Sì, spero, certo. Ma abbiamo capito tu. Sì. Perché l'idea della ritualità preparata è di un fastidio infinito. Proprio. Carlo da Monza e Roberto da Varese, ma prima voglio leggere un messaggio. A me arrivano sempre alle 11 messaggi per Gigi Garanzini. Vi prego, mandate un messaggio quando è in onda Gigi Garanzini a me. Mandatene uno, io me lo stampo e me lo tengo vicino. Sono un appassionato di calcio, un fedelissimo di Radio 24, di A Tempo di Sport. Oggi Garanzini, dato lo sconfinamento nella sua trasmissione, non si deve offendere se qualcuno lo chiama dottore. Siete bravissimi, quindi mi ha messo anche in mezzo. Vanni da Cuneo, ma ci aggiunge Forza Azzurri. Carlo da Monza, Forza Azzurri? No, buongiorno. Buongiorno. Non lo so, io è un po' di anni che la Napoli non mi scalda più. Io sono molto tifoso della squadra della mia città, ho seguito il calcio Monza in curva per quasi 15 anni. Sono, potrei essere definito uno di quelli che chiamano ultras. A me è sempre piaciuto il calcio visto allo stadio, il calcio alla televisione già mi scalda poco. E la nazionale, che è una squadra che viene tirata su ogni due anni per fare una manifestazione, molto francamente quando ero piccolino mi scaldava molto. Già gli ultimi mondiali che abbiamo vinto, mi ricordo durante la finale mi sono addormentato sul divano, ho visto i rigori, ho chiuso la televisione e sono andato a letto, perché non è più in grado di scaldarmi. Cioè, tutto l'anno ormai ci fanno vedere calcio globalizzato, se uno ha Sky si può vedere il campionato tedesco, spagnolo, eccetera. Adesso io vivo a letto da quindi due un anni. Po' Carlo, lei è un po' tiepidino, quindi rinuncerebbe a poco per vincere, per vedere vincere l'Italia? Assolutamente no, anzi le dico, io so che la nazionale gioca domenica, però so che io, vabbè, vivo in Germania, tornerò domani a casa, e quindi so che sabato mi vedo Germania-Portogallo. Molto francamente Italia-Spagna non è che mi... Quindi insomma non le chiedo che cosa vuole rinunciare per vincere l'Italia, perché la sento tiepidino. No, Carlo, perché non mi viene niente in Le viene niente in cambio. Quando uno è abituato al calcio del Monza, indubbiamente poi non è semplicissimo, Paolo, adattarsi a quello. Paolo da Verona, buongiorno. Paolo? Ospiti. No, sono da Varese. Una mia piccola considerazione. Ma è Paolo o Carlo che parla? Sono Paolo, Roberto da Varese. Allora, sì, allora buongiorno, io non so con chi parlo, ma si presenti lei. Sì, buongiorno, sono Paolo da Verona. Magnifico, Paolo. Ecco, senta, semplicemente io questa mattina ascoltando la vostra trasmissione facevo una piccola considerazione. La mia famiglia è composta da 5 persone. Io sono juventino, mia moglie mi dice sempre tutto purché non vinca l'Inter. Ho poi una ragazza che tifa per la Roma. Ho un altro ragazzo per la Juve e poi l'altro ragazzo ancora per Sampdoria. Sì. Io dico questo, chiunque può tifare qualunque cosa. Certo. Quello che mi accorgo io è che la domenica sera tutti quanti tendono un po' a tirare la loro bandiera, ma quello che più mi fa piacere è che quando c'è la nazionale c'è questa unione anche nel semplice sport del calcio, che tanto semplice non è, però unisce. Ecco, è quello che volevo dire. Un bel collante. Sì, è un bel collante e fa molto piacere. A riguardo di quello che io andrei a sacrificare per la nazionale, beh, io sono latino e quindi non me lo chieda. Va bene. 800 24 00 24. Dottor Aquilar? Ma è interessante che telefonino alcune persone contrarie o ostili al calcio, che è una cosa molto graziosa, che possono avere spazio per esprimere la loro protesta nei confronti di quella che può essere un'indigestione, e ancor più che telefonino persone ostili alla nazionale, perché sta per arrivare una scorpacciata che per qualcuno potrebbe essere un'indigestione. E anche lì il calcio consente di formare i gruppi dei detrattori, che quindi poi possono comunicare e solidarizzare tra loro per dire Madonna come ci ha stufato questa cosa. Quindi alla fine insomma ci si divide in squadre, ma tutti abbiamo da parlare, da dire qualcosa. Esattamente. L'altra cosa interessante che proponeva Paolo da Verona era quella della famiglia invece appassionata in qualche modo di calcio. Il calcio è uno strumento per sottolineare le differenze, ognuno ha scelto una squadra per cui tifare, ma anche per unirsi all'interno invece del progetto nazionale. In questo senso parlavo all'inizio del significato antropologico del calcio, che riesce in qualche modo a coinvolgere emozioni e a veicolare relazioni significative. Adesso dobbiamo andare a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, che cosa sareste disposti a rinunciare per veder giocare bene la nostra nazionale o per vederla vincere. Attenzione alle risposte, perché il dottor Aquilar è in ascolto con un orecchio da psico. Abbiamo Gigi Garanzini, il dottor Melegatti, vi aspetto. 800 24 00 24. Essere e benessere. Sabato 18 alle ore 20:25 in telecronaca diretta da Wembley, Inghilterra-Italia, valevole per la qualificazione della Coppa del Mondo. Fantozzi aveva un programma formidabile. Calze, mutande, vestaglione di flanella, tavolinetto di fronte al televisore, frittatona di cipolle per la quale andava pazzo, familiare di peroni gelata, tifo indiavolato e rutto libero. Qua il dottor Melegatti se la ride. Perché? Perché in effetti di fronte, quando si è lì a casa, sul divano, gioca la propria squadra, o piuttosto si vede la nazionale, viene fuori un po' il fantozzi che c'è in voi? In fondo il rutto libero, insomma, ecco, eccesso, ci piace. Ci piace. Perché uno è anche la cipolla. Ah, sicuramente. Quindi, come medico, il TV dinner consigliato per questi europei? Non esiste dieta in questo caso. Libero. Non esiste dieta. Roberto, buongiorno da Varese. Buongiorno. Sarà anche lei sul divano con bibite, rutto libero, eccetera? Sì, abbastanza. No, volevo fare due considerazioni. Io volevo dissentire sul fatto che siano più emozionato allo stadio che non a casa, perché io allo stadio, veramente sono anche in compagnia, riesco a sfogarmi, grido, cose che a casa rischio un piatto da mia moglie, quindi subisco e mando giù. Quindi a livello emozionale io soffro molto di più a casa. Lei soffre più a casa che allo stadio, perché a casa ha sua moglie. Perché è controllato. È controllato da sua moglie. Marcato. Roberto, voleva aggiungere altro o questa è la sua considerazione? Roberto, l'abbiamo perso. Gianni dalla provincia di Milano, buongiorno. Buongiorno. Eccoci. Sì, niente, no, io telefonavo per dire che io sarei disposto per vedere l'Italia del rugby vincere un 6 nazioni a tutto. Perché vabbè, io a di tutto? Quel tipo. Sì. Per noi rugbisti almeno io vado a vedere tutti gli incontri a Roma così, e mi dà delle forti emozioni sia la nazionale di rugby come può essere, non so, pallanuoto, cioè le nazionali in genere, a parte il calcio, che veramente calcio no grazie, ecco. Calcio no grazie, no assolutamente, perché ci sono, anzi spero che perdano o che non si qualificano a questi europei, perché così almeno basta. Ma ecco, ma io questo non beh Gigi. Ma sai, queste sono le minoranze, no? Le io le capisco invece, perché, ma parlo sul serio, senza ironie, cioè è ovvio che le minoranze schiacciate dalle maggioranze debbano augurarsi che questi grandi numeri chiudono, cioè qui sono il Partito Repubblicano che si augura che la DC un giorno o l'altro finisca, insomma, non abbia passato decenni così, e secondo me è assolutamente comprensibile. Che poi accada lo escludo, però. Ma infatti la puntata di oggi vuole dare anche voce, perché il dottor Aquilar anche sul Daily Lab ha scritto un post per dare voce anche a chi proprio dal calcio si allontana e che Gioco Forza deve farci conti per queste 3 settimane. Parlando di rugby, però, ho visto che il dottor Melegatti si illuminava. Trasalito, sì. Perché? Ma che differenza? È un tifo diverso? Sì, decisamente sì, è un tifo diverso, è un ambiente diverso. Non voglio cadere nelle banalità o nelle frasi fatte, ma insomma questa è la realtà, è un tifo diverso, è un tifo più tollerabile, quello del rugby, più tollerante, è un tifo che ha tifosi che hanno età più diverse, c'è più gioia e c'è più partecipazione positiva, non c'è meno tifo contro, non dico che non ci sia, ma c'è meno tifo contro. Assolutamente, tant'è vero che lui lo chiama tifo, io nel rugby la chiamerei soltanto passione. Perché è una passione che arriva all'ennesima potenza, però è passione, cioè c'è una base culturale rispetto, ma è normale però, perché è un fenomeno più rarefatto. Il calcio invece è una cosa da grandi numeri, sì, da nazional popolare, quindi imbarca anche le fetenzie più estreme. Sì. Dottor Aquilar, secondo lei si può contaminare la passione del rugby, può contaminare il tifo calcistico, oppure ci sono delle istruzioni per tifare con più passione? La passione intesa proprio nel senso più bello del termine? Che la passione è un elemento emotivo, quindi non possiamo in qualche modo forzarla in una direzione o nell'altra. È naturale, come diceva l'ascoltatore Gianni, che ogni sport muova emozioni delle stesse motivazioni, però di caratteristiche diverse. Nel rugby, per esempio, ci potrebbe essere l'idea che, poiché siamo pochi, siamo in qualche modo i migliori e cerchiamo di testimoniarlo anche nella forma con la quale esprimiamo la nostra passione. Quindi si tratterebbe sempre di trovare una negoziazione, in questo mi riconnetto anche a Roberto Davarese che aveva chiamato, se la moglie di Roberto lo costringe a subire e a mandar giù, quindi a impedirgli in qualche modo di esprimere completamente la sua gioia, sì, vada forse da si un potrebbe amico. Fare un'altra azione comune, più divertente, insieme alla moglie, e poi provare a liberare più gioia anche nella visione domestica delle partite. E l'idea è sempre della negoziazione senza perdenti, e il trucco della negoziazione senza perdenti, per così dire, è allargare la torta, mettere qualcosa di più all'interno della negoziazione, e potrà essere gradevole per tutti. Patrizio, buongiorno, da Bergamo, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Niente, io volevo solo dire questa cosa, per quanto riguarda cosa sono disposto a fare. Sì. Io sarei disposto a comprare qualche testata giornalistica in più, a guardare la televisione, se gli introiti derivanti dal fatto che l'Italia vada avanti in questo campionato e magari vinca, vengono un po' destinati alle popolazioni terremotate. Sicuramente se l'Italia va avanti ci sarà una maggiore entrata, non so, data dalla pubblicità, data dalla maggiore vendita di giornali o quant'altro. E io sono contento se vince solo per questo motivo, se no sinceramente non mi interessa, neanche che vada avanti. Grazie Patrizio. Gianluca da Modena, buongiorno. Buongiorno. E complimenti per la trasmissione. Grazie. E io volevo dire questa cosa qua: io sono un grande appassionato, non tifoso di calcio, e tengo il Milan, il Sassuolo, il Carpi per ragioni di residenza, però ci sono eventi che secondo me valgono delle finali di Coppa d'Europa o Coppa del Mondo. Infatti io domenica, quando l'Italia giocherà, sarò allo Stadio Firenze a un concerto di Bruce Springsteen. Il grande. Secondo me che ci sono emozione. Eventi che sono delle finali uniche. Ecco, per cui rispondo al contrario alla domanda che facevate prima: che cosa siete disposti a rinunciare per vedere l'Italia? Ecco, io rinuncerò a vedere l'Italia per andare al concerto del Boss. Vi saluto e vi ringrazio. Buon concerto, Gianluca. Che il grande Boss, tra l'altro. No, ma Boss senza la I finale io, per me va benissimo. E a questo proposito, questa mi sembra che sia c'è un significato particolare per questa edizione degli europei, che è il primo che è la prima volta che la maglia azzurra viene indossata da due giocatori di colore nati in Italia, che sono Balotelli e Ogbon. Io sarei molto felice che si comportassero bene. Su Ogbon non ho dubbi da un punto di vista caratteriale, su Balotelli ne ho e ne abbiamo tutti, tanti ma tanti di più. Speriamo che capisca che cosa la società civile italiana si aspetta da lui, tenendo anche conto, l'altro giorno i giocatori sono stati ad Auschwitz e a Birkenau e hanno visitato, quindi una lezione di civiltà l'hanno data e certamente l'hanno spugnata. Che capiscano che oltretutto gioca in una nazione, la Polonia, in cui ci sono brutte recrudescenze, in cui il tifo è molto connotato in senso neonazista da parte degli ultra. Ecco, io mi auguro questo, perché vedere, ripeto, due giocatori neri perfettamente italiani, no? che indossa la maglia azzurra, beh, insomma, questa è direi che è una svolta discretamente epocale per la nostra società proprio. Dottor Melegatti? Beh, non posso che essere d'accordo, e aspetto con ansia di vedere questi due ragazzi, come diceva Gigi, comportarsi bene, ma ne sono convinto tutto sommato. Allora, grazie dottor Aquilar, grazie per essere stato con noi, per averci grazie accompagnato. Il post del dottor Aquilar su Calcio e Tifo potete leggerlo sul Daily Lab. Grazie a Gigi Garanzini e al dottor Melegatti. Noi ci vediamo, ci sentiamo lunedì. Radio 24, la passione si sente. Essere e benessere.